Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, da Deborah e Lucilla, che al volo sostituisce la nostra Caterina Malatina, e benvenute alla nostra 60ª trasmissione. Eccoci qui di nuovo con il nostro consueto appuntamento delle 21, ospiti delle nostre compagne ed amiche del martedì femminista autogestito, dopo la diretta alla Forte Prenestino di giovedì 1 giugno. A parte i problemi tecnici e un qualche microfono, ci siamo molto divertite al Forte, facendo tutte insieme una trasmissione nella quale abbiamo un po' voluto rendere l'idea di quello che abbiamo fatto in radio dal 97 ad oggi e di quello che vogliamo fare in futuro. Ci siamo tanto divertite che anche oggi, caldissimo 5 giugno, siamo in diretta, registrando in tempo reale per la nostra replica di martedì 13 giugno. Perdonateci dunque qualsiasi svarione tecnico o lessicale. D'altra parte, siamo emozionate anche perché, come lesbiche, non siamo mai state al centro dell'attenzione come in questi giorni. Il motivo lo conoscete tutte, il World Pride, anzi, per essere precise, il Giubileo. Eh sì, non siamo mai state in grado di farci da sole tanta pubblicità come ci sono riusciti tutti gli uomini e le donne di cosiddetta buona volontà che vorrebbero renderci trasparenti. Ci fanno quasi pena e vorremmo suggerire loro di smetterla di polemizzare sul World Pride. Sta diventando controproducente per i loro sacri valori morali. Ovviamente, come esporremo più seriamente nel corso di questa trasmissione, i giornali e gli show televisivi hanno, come al solito, rimarcato solo il lato sensazionalistico del nostro movimento culturale. Ma da un certo punto di vista, considerata la triste situazione politica e culturale in cui versiamo, va bene così. Tanto accanimento contro gli omosessuali, dovuto esclusivamente alla preoccupazione di non turbare il prelato giubilante, almeno ha reso chiaro alle masse un concetto: gay e lesbiche esistono e sono tanti e tante, se riescono a spaventare un potere secolare e radicatissimo come la Chiesa. Ringraziamo i nostri nemici e amici e dichiariamo loro, ma intanto dichiariamogli qualcosa con gli Scansnensis, scusate la mia pronuncia, ma Deborah l'ha fatta apposta, e con un pezzo che lei ride e io meno, con un pezzo che si intitola We Don't Need Who You Think You Are.

È pazzesco, inaudito, tremendo. Bisogna agire subito. Talmente di fretta vanno che me le trovo di fronte stamattina mentre vado al lavoro. Sulle prime le prendo per due nomadi e sorrido, scusandomi. No, signore, non ho intenzione di farmi leggere la mano. So già di avere sul groppone una sfiga abissale e sono pure in ritardo. Buona giornata ad entrambe. Fermala, mi sibila Belmarra, tendendo una mano adunca tra stracci variopinti. Tu scrivi, vero? Resto allibita e Zarasca mi incalza. Scrivi di lesbismo, eh? Beh, sì, anche. Non è che sia una specializzazione, balbetto. Bene, ululano in coro, fregandosene della mia risposta, e mi ingiungono di raccontarvi quel che in effetti v'ho raccontato fino ad ora. Ecco, ma siete proprio sicure? Ho tentato mentre già cominciavano a liberarsi verso l'alto, ridacchianti e soddisfatti. Io non sono una scrittrice vera e propria, sapete, è una cosa, insomma, a livello amatoriale. Perché non avete cercato Dacia Maraini o Margherita Giacobino? Accidenti a voi! Per favore, tornate qui! Non mi crederà nessuno! Abbiamo tutto il mondo di cui occuparci e pochissimo tempo da perdere, ha puntualizzato Belmarra. Sei stata scelta tu e tu hai quindi il dovere di fare del tuo meglio, per umile che sia. E poi, ha aggiunto Zarasca, sei l'unica abbastanza matta da trovare perfettamente normale un incontro con noi. Credi veramente che la Maraini ci sarebbe cascata? Andiamo. Benvenuto nel nostro consueto appuntamento con la musica lesbica indipendente. Oggi vi proponiamo il duo marsigliese delle Bella Donna 9CH, che speriamo, ed infatti sarà così, se tutto va bene, di avere con noi al nostro grande evento lesbico durante il World Pride, di cui vi parleremo dopo. Dunque, le Bella Donna 9CH dalla Francia con Rue des Petits Pas. À l'aveuglette et à la vodka, et quand elle était seulette, elle en sifflait trois. Elle tenait une guinguette près de Martabat. Tous les samedis c'était la fête, rue des Petits Pas. Les soirs de pluie et de tempête, jouait de l'ocarina, offrait à toute la guinguette des citrons vodka. Quand elle fermait après minuit, elle ne dormait pas. Sa chambre éclairait toute la nuit la rue des Petits Pas. Elle fumait des cigarettes, roulait son tabac, se parfumait à la violette, des bagues à chaque doigt. personne connaissait sa vie, ses joies, ses tracas. Elle avait pour seule amie une fille d'Alaska. N'est pas venue cette fille d'Alaska, pourtant nous l'avions attendue rue des petits pas. Elle a fermé, elle est partie, on n'y croyait pas. Sa chambre éclaire jour et nuit la rue des petits pas. Elle a fermé, elle est partie, on n'y croyait pas. Sa chambre éclaire jour et nuit la rue des petits pas. Elle marchait à l'aveuglette. Elle marchait à la vodka. Se parfumait à la violette. Se parfumait à la vodka. Elle a fermé. Elle est partie. Gli appuntamenti. Siamo felici di annunciarvi che anche le lesbiche separatiste, senza alcun aiuto e con i nostri scarsissimi mezzi, saranno più che presenti nella settimana del World Pride a Roma. Sarà un allegrissimo e coloratissimo centro sociale Brancaleone ad ospitare per 3 giorni, il 6, 7 e 8 luglio, una grande iniziativa dedicata alle donne lesbiche di tutto il mondo. Dalle 18 fino a notte inoltrata, concerti di musica lesbica italiana ed europea, proiezioni di film lesbici, mostre di arte visiva, al ristorante ed una grande festa per il sabato sera. Questo è parte di quanto il coordinamento Lesbiche Romane, le Desirande di Bari, il Pianeta Viola di Brescia e l'Associazione Visibilia di Bologna hanno preparato per voi. Il Brancaleone è raggiungibile direttamente da Piazza della Repubblica o Piazza Venezia con l'autobus express numero 60 e con gli autobus 36, 83, 90 e 211 scendendo a Corso Sempione. Non perdetevi questo grande appuntamento, ancora una volta organizzato dalle lesbiche per le lesbiche. Per informazioni 06 68 64 201, telefono, fax e segreteria telefonica, oppure email a clrbp@hotmail.com. E per chi non abita a Roma e purtroppo decide di partecipare solo alla marcia finale, l'Associazione Visibilia, Arcilesbica Nazionale ed Azione Gay e Lesbica di Firenze, in collaborazione con il Coordinamento Lesbiche Romane del Pianeta Viola di Brescia, hanno organizzato uno splendido treno solo per le lesbiche che partirà da Milano l'8 luglio alle 7 di mattina, arrivando a Roma intorno alle 13 e toccando tutte le principali città italiane. Il ritorno è garantito per le 3 di mattina del 9 luglio. Diffondete la voce alle nostre amiche in Italia e all'estero, costa pochissimo e l'allegria è assicurata. Per informazioni e prenotazioni, a Bologna, presso la sede di Visibilia, via dei Falegnami 3E, telefono 051 26 35 92, dalle ore 18 alle ore 21, tutti i giorni. A Milano, telefonate allo 0339 57 65 311. A Firenze, presso la sede di Azione Gay e Lesbica, via San Zanobi 54R, telefono 055 67 12 98. Per chi invece abita a Roma sarà importante e divertentissimo accogliere questo treno con centinaia di lesbiche da tutta Italia. Appuntamento alle 12.30 alla stazione Ostiense, da dove sembra partirà anche il corteo del World Pride. Chiamateci allo 06 68 64 201 e seguite le nostre trasmissioni per essere aggiornatissime sulle nostre iniziative. Siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87-900 di Radio Onda Rossa, nell'ambito del martedì femminista autogestito. Aspettiamo le vostre email all'indirizzo clrbp@hotmail.com oppure telefonateci al centro femminista separatista 06 6864 201. Lasciateci un messaggio, mandateci un fax o telefonateci al mercoledì tutte le sere. Ricordandovi che a Milano il 10 giugno alla Recycle in via Calabria 5 ci sarà la presentazione del libro Orizzonti di Borea di Pat Carra alle 17. Vi ricordo che la musica che avete sentito di sottofondo sul racconto che ha letto Lucilla era della splendida Annie Lennox. Ora invece andiamo ad ascoltare Melissa Etheridge con un brano che ci ha portato fortuna, credo, perché è stato mandato in onda nella nostra prima trasmissione. Your Little Secret. I know you like me, but I wanna, wanna, wanna Tra le tante voci di protesta che hanno risuonato in seguito alle infelici esternazioni del Presidente del Consiglio Amato e di tutti gli altri, a questo punto non poteva mancare la nostra, mentre per troppi giorni erano mancate, ahi noi, le voci dei politici di pseudo sinistra, che, se si escludono i tentativi di rifondazione comunista e la voce, diciamo, interessata di Pecoraro Scanio, avevano espresso a caldo il loro unico commento ufficiale tramite l'onnipresente Melandri. La signora, dimostrando nuovamente il suo grande acumo politico, si è appellata ai sentimenti di tolleranza che, per quanto ci riguarda, farebbe bene a riservare al più ai poveri cagnolini soggetti alla vivisezione per scopi scientifici, con tutto il rispetto per la pregevole razza canina. Noi non invochiamo tolleranza, ma rispetto, e la differenza tra le due cose è enorme. Dico a questo punto perché, sinceramente, da uno Stato cattolico ed eteropatriarcale come il nostro, nonostante le mediazioni che il Mario Mieli è stato costretto a fare per rendere attuabile la manifestazione, fin dall'inizio non ci aspettavamo una calorosa accoglienza per un World Pride organizzato durante il santo ed intoccabile giubileo. Per inciso, e detto tra noi, non ho mai capito che cosa trovino da giubilare i cattolici in un mondo stretto dalla fame, dalle guerre e da un sempre più manifesto egoismo. Comunque, affari loro. Allora, ce lo aspettavamo, ma come al solito anche la più negativa delle previsioni viene superata dai fatti, ovvero il previsto atteggiamento ambiguo ed attendista dell'amministrazione romana è stato superato dall'esternazione esplicitamente contraria allo svolgersi della manifestazione di un Presidente del Consiglio che, piuttosto, farebbe bene a preoccuparsi della precaria situazione della propria poltrona, priva del consenso del popolo e di qualsiasi persona dotata di un minimo di intelligenza. A parte ogni giudizio di merito, inutile perché il nonsenso e l'asservimento di questo, anzi questi governi al clero, si era palesato in tante altre circostanze, accompagnato da una politica per niente progressista di tutta la sinistra italiana, quello che ci rende più perplesse è proprio la motivazione formale ostentata da Comune di Roma, Regione e Governo sulla non fattibilità del World Pride. L'ordine pubblico. All'improvviso a tutti sta a cuore l'ordine pubblico. In primo luogo, di quale ordine pubblico si va parlando? A Roma c'è un ordine pubblico e non ce ne siamo mai accorte? Ma allora, tutti i casini causati dal giubileo in termini di traffico, lavori mai finiti, botte della polizia agli autonomi, ai centri sociali, quando manifestano contro i fascismi, ma allora questo è ordine pubblico? Volendo tornare ad essere serie, superando il senso del ridicolo che del resto la situazione impone, ci sembra che l'attendismo dell'amministrazione romana, che prima non nega ma nemmeno dà il consenso alla manifestazione, poi ritira il patrocinio ma mitiga la scorrettissima azione dopo sole 24 ore, nonché gli attacchi espliciti della regione e del governo, stanno esasperando una situazione già peraltro difficile in una regione di destra come il Lazio. Analizziamo i comportamenti uno a uno. Il Comune di Roma afferma di aver esitato a dare il consenso alla manifestazione perché Forza Nuova aveva chiesto le autorizzazioni per lo stesso giorno per realizzare dei cortei alternativi rispetto al World Pride. Bene, se il motivo fosse stato veramente questo, sarebbe bastato negare queste autorizzazioni proprio in nome di quell'ordine pubblico che intendono difendere. Durante i Gay Pride che si sono tenuti negli anni in Italia, non è mai accaduto alcun fatto spiacevole che abbia turbato il cosiddetto ordine pubblico. Si può dire lo stesso per le manifestazioni dei fascisti? Insomma, Rutelli prima cincischia, poi fa quasi un atto di coraggio per assicurarsi un futuro clerical luminoso dopo il termine del suo ultimo mandato, poi proprio non ce la fa e di tutto l'atto di forza resta solo la salvaguardia della patina formale, il ritiro del patrocinio. Beh, meglio così direte, ma questo in realtà è un atto politico gravissimo che peserà su Roma per tutta la storia presente e futura del World Pride. On a road that goes to nowhere, ain't nobody coming back. Il nuovo presidente della regione, tra l'altro sentire parlare di ordine pubblico da un picchiatore come Storace, permetteteci di nuovo, è davvero ridicolo, è stato comunque il più coerente di tutti. Lui è fascista e si sa che i fascisti hanno esaurito la loro attività per gli omosessuali negli anni 40 più o meno, aiutandoli a salire su un bel treno per la Germania, dotato di tutti i comfort, doccia compresa. Storace è coerente, ma nei meandri della scassatissima organizzazione amministrativa italiana sfidiamo chiunque, Storace compreso, a capire se gli organi regionali hanno o meno il titolo di tentare di influire sugli eventi regolamentati dall'amministrazione di uno dei comuni della regione. Una volta esaurito il compitino promesso ai suoi elettori di scrivere la letterina di protesta al ministro degli interni, Storace potrebbe considerarsi contento ed uscire dalla confusione avendo fatto un'ottima figura. D'altra parte, se come crediamo la regione non ha alcun titolo per vietare una manifestazione a Roma, l'amministrazione comunale farebbe bene a rivendicare per intero la propria sovranità sulle decisioni, assumendosi una buona volta tutte le responsabilità che il potere a volte comporta. Il governo taccia o dica qualcosa di insensato, altrimenti avalla le dichiarazioni dell'opposizione di aver messo l'Italia in mano ad una banda di incompetenti inconcludenti. Ci sono problemi di ordine pubblico? Bene. Invece di lasciare la questione alle esternazioni dell'ultimo arrivato, che per mancanza di altre teste si trova a fare il Presidente del Consiglio, attuasse in collaborazione con il Comune un piano volto alla vera tutela dell'ordine pubblico, sicuramente messo in pericolo dai possibili attacchi ed attentati dai fascisti, e non da una folla gaia che sfila in una parata. Il nostro appello a Comune, Regione e Governo è proprio questo. Non ci sembra lungimirante continuare ad amplificare le polemiche con stupide esternazioni o con atteggiamenti ambigui. In questo modo non si fa che accrescere le tensioni, avallando i disordini che i fascisti sarebbero ben felici di creare. Il World Pride è una manifestazione mondiale che l'Italia non poteva, non può e non potrà rifiutarsi di ospitare, pena il ridicolo e la disistima della tanto sbandierata Europa e del resto del mondo. Paesi come l'Olanda, la Francia, l'Australia e gli Stati Uniti hanno dimostrato di saper gestire a livello culturale e politico una manifestazione come il World Pride. Ora tocca all'Italia ed è assolutamente controproducente il mare di chiacchiere che i politicanti stanno strumentalmente facendo. Hanno sempre saputo che non è possibile tirarsi indietro. Siamo a giugno, la macchina è in movimento da ben 4 anni e ci dispiace dirlo, il resto del mondo se ne strafrega dei cattolici giubilanti. La manifestazione si sarebbe fatta in ogni caso, con o senza i permessini dell'autorità. Sa chi finora è stato capace solo di blaterare e di fuggire dalle proprie responsabilità, dimostrare di essere in grado di gestirla. Tra l'altro, attenzione anche al tipo di permessi che devono essere accordati. La folla è gaia, ma venire dall'America per sfilare nei vicoli più periferici di Roma può far incazzare anche il gay più allegro di questo mondo. Il dato è tratto. Se le autorità credevano di salvarsi in seguito all'autofallimento dell'organizzazione, hanno commesso un errore, dovuto solo alla loro ignoranza e tracotanza. Ora nessuno ha più scelta. Si deve andare fino in fondo, con serietà e maturità, ammesso che da qualche parte ne siano ancora visibili delle pur sporadiche tracce. Ciao a tutte da parte di Deborah e di Lucilla e a martedì prossimo con Una Calamità. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Sì, yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. La 4, se non cade.